tipo un lisce, cioè non so come. Sì, è proprio agevole il lisce. È il mio punto preferito. Se ci metto di yoga. Esatto. Yoga nel freddo. Potrebbe essere no. Una delle attività che abbiamo messo. Diciamo? Stefano non si vede. Dai, poi si unirà. Dove stava in bici? Sì, no, non era raggiungibile proprio. Quindi, dai, cominciamo. Chi è che era presente anche all'iniziativa di sabato scorso? Domenica, di due domeniche fa. Scusate, c'entrava niente. Solo Domenico, Antonio. Beh, noi. Beh, noi. Tu a metà, dai. Sì, sì, si può dire che succede. Vai, Lisa. Bene. Allora. Scusate, ci allarghiamo, facciamo un passo indietro, così c'entriamo tutti. Sì. Benvenute, benvenuti. E appunto questa è la seconda giornata del laboratorio, la prima è stata domenica 4 e più o meno le due giornate si strutturano nello stesso modo. Abbiamo fatto anche l'altra volta una passeggiata la mattina e poi siamo andati a pranzo al cortocircuito che ci ospita anche oggi. L'altra volta poi ci eravamo spostati in un altro posto, invece oggi rimarremo al cortocircuito e faremo delle attività nel pomeriggio più di disegno. L'altra volta era in particolare mappatura. E questa volta, oltre alla parte del disegno, ci sarà anche un momento di serigrafia. Il titolo del laboratorio si chiama Il Pratone non è un vuoto, o non è vuoto, perché un pochino stiamo cercando di... abbiamo giocato un po' contro la retorica che viene raccontata da chi in questo momento vuole costruire all'interno del Pratone. E è un laboratorio che è stato organizzato appunto dal comitato del Pratone di Torre Spaccata, di cui adesso magari Stefano vi racconta un po' meglio. E stiamo cercando appunto di rendere quest'area, che sono 58 ettari di area verde, effettivamente un parco. E in questo momento ci sono un progetto che in realtà nasce da due speculazioni edilizie differenti. Una, sta prendendo un po' di carte, una che deriva da in realtà un'eredità urbanistica del vecchio piano regolatore degli anni 60, che prevedeva qui, come in tutte altre aree del quartiere orientale della città, un spostamento di tutti i grandi edifici ministeriali che c'erano invece nel centro storico. Questo grande progetto si chiamava Sistema Direzionale Orientale e proprio qui dentro il Pratone di Torre Spaccata prevedeva il prolungamento dell'autostrada Roma-Napoli, che veniva, diciamo, la direzione è proprio la stessa del Pratone. Se si vede sulla mappa, la lunghezza del Pratone è proprio il continuo dell'autostrada che doveva penetrare all'interno del grande raccordo anulare, arrivare al parco di Centocelle e da lì snodarsi andando verso il Tiburtino, Pietralata, verso nord. Questo progetto è rimasto sulla carta per tantissimo tempo e probabilmente anche per fortuna non è mai stato realizzato. Per questo motivo sono rimaste vuote, cioè non costruite, per tutti gli anni che hanno invece caratterizzato la speculazione edilizia, quindi gli anni 60-70 di tutti i quartieri limitrofi, comunque la costruzione. Ciao! Ciao! Ciao, benvenute! Stiamo facendo un po' un'introduzione del Pratone. E comunque abbiamo appena iniziato e quindi diciamo questo laboratorio questa è la prima ragione per cui quest'area non è mai stata costruita. Il nuovo piano regolatore nel 2003 e nel 2008, nonostante siano stati fatti una serie di scavi che hanno attestato presenze archeologiche all'interno, non ha recepito i vincoli che ci sarebbero dovuti essere per quest'area, né archeologici né ambientali, e tutt'oggi quest'area è costruibile, cioè è ancora edificabile. E non solo edificabile, è prevista quella che viene chiamata centralità urbanistica. Cioè il piano regolatore aveva previsto 18 centralità urbane all'interno della città per rendere la città non più monocentrica, quindi col centro storico e basta, ma con più centri. Questa in realtà è una visione che all'epoca sembrava innovativa, rivoluzionaria, eccetera. Poi abbiamo visto negli anni molte di queste centralità, per fortuna non sono state realizzate, ma quelle che sono state realizzate senza servizi, solamente diciamo con la speculazione edilizia residenziale, ma non appunto fornendo poi effettivamente il quartiere dei servizi necessari, hanno fallito un po'. Poi la crisi economica, eccetera, non sono mai state realizzate. Torre Spaccata dovrebbe essere una di queste centralità. E attualmente con diciamo, i finanziamenti del PNRR non solo si potrebbe realizzare la centralità, ma anche Cinecittà, diciamo, è previsto un'espansione di Cinecittà, quindi del polo cinematografico all'interno del Pratone. E visto che appunto ci sono questi due tentativi di costruzione in atto, noi stiamo cercando, diciamo, di impedire anche attraverso la delibera, anche attraverso una raccolta firme per cambiare la destinazione d'uso del Pratone, stiamo cercando di appunto evitare che questa costruzione avvenga. E tutto ciò per dire che appunto il titolo del laboratorio è Il Pratone non è un vuoto, perché quello che viene raccontato da fuori, da chi ci vuole costruire, è che in realtà è solo un pezzo di terra forniente all'interno, e quindi proprio perché è vuoto ci si può costruire. È un termine che tra l'altro viene utilizzato anche in urbanistica, anche in architettura, proprio vuoto urbano, per andare a definire quelle aree che appunto non hanno una destinazione funzionale o appunto urbanistica con un certo tipo di carattere, senza considerare che magari quelle aree hanno un carattere ecologico, un carattere culturale, ambientale, che soprattutto, diciamo, adesso anche con la crisi climatica dovrebbe essere considerato all'interno della progettazione urbana. E adesso recentemente, il 6 dicembre, sono stati, questo è un termine mio nuovo, sono stati definiti buchi neri. È stato detto dall'assessore dell'urbanistica nel momento in cui hanno presentato il lavoro che è stato svolto in quest'anno di lavoro, è stato detto che Roma non può essere più la città dei buchi neri, definendo proprio queste aree e tra l'altro proponendo per l'anno che verrà, si facevano, insomma, tutta questa presentazione di quello che avrebbero fatto durante il prossimo anno, lavoreranno per colmare questi buchi neri su quattro grandi progetti. Uno è il litorale di Ostiense, Pietralata con la costruzione dello stadio, e il quarto è proprio Torre Spaccata. E quindi, diciamo, per cercare un po' di così contrastare quella visione di modello di città che, insomma, non condividiamo, il laboratorio proverà un pochino a cercare di tirare fuori invece i caratteri e i valori che sono presenti già nel Pratone. Ciao Stefano. Oggi. Non so se vogliamo fare un giro di nomi prima di iniziare. Ciao, ci siamo tutti. Ciao Ricky. Ciao. Buongiorno. Vai, presentiamoci tutti. Presentiamoci. Che la senso vuoi seguire? Orario o antiorario? Guarda. Decidi tu oggi. Sinistra. Vai. Ciao Cecilia, piacere. Ciao Anna. Domenico, di Pac Libero. Tiziana. Ivia. Giussi. Stefano. Ilaria. Davide. Agnese. Io sono Pietro. Antonio. Mattia. Luca. Camilla. Stefano pure io. E Giulia. Elisa. Sinasso. C'era. Nulla è casuale, nulla è lasciato a caso. Non so se sta arrivando qualcuno. Noi qualsiasi persona passi di qui la la parte fondamentale, almeno secondo me, di questo tipo di iniziative, così come della delibera di iniziativa popolare, è quella di creare una maggiore consapevolezza sul territorio di quello che è il valore dell'area, di quelli che sono i rischi che incombono effettivamente dal punto di vista urbanistico sull'area, perché io sono convinto, ma credo anche, diciamo, tutti gli altri del comitato, che probabilmente possiamo ottenere un risultato in termini di difesa del patrimonio, di questo tipo di patrimonio, creando una mobilitazione, perché altrimenti sì, tutti sono degli ottimi strumenti come quelli di partecipazione popolare, ne siamo consapevoli, però effettivamente se non c'è un territorio compatto, diciamo, che sposa la causa e che rivendica quello che poi effettivamente è un suo diritto adesso anche costituzionalmente garantito, che è quello, no, a vivere in un ambiente salubre, alla tutela dell'ambiente e a che l'iniziativa economica venga effettuata sempre nel rispetto appunto dell'ambiente, non riusciremo ad arrivare lontani. Per cui, ecco, iniziative come queste sono importanti per aumentare questa consapevolezza. Io ho poco da aggiungere sulla storia del comitato, nel senso che siamo un comitato di scopo che nasce ormai circa 2 anni fa col solo obiettivo, tra virgolette, di difendere quest'area verde dalla speculazione edilizia e di farlo, diciamo, inserendoci anche all'interno di una rete di battaglie che condividono gli stessi obiettivi, che sono quelli appunto della tutela del patrimonio verde di Roma. E ecco, mi ricollego alla definizione appunto di cui parlava Lisa, che era quella di queste aree considerate come vuoti urbani, e buchi neri appunto è l'ultima evoluzione dell'assessore Veloccia all'urbanistica. E ecco, secondo me, diciamo che anche semplicemente nella definizione di vuoto urbano, così nella mera definizione di vuoto urbano, c'è uno dei motivi della lotta del comitato, nel senso che proprio perché è un vuoto urbano, nel senso proprio perché non è stato ancora edificato, secondo noi questo è un momento storico in cui vale la pena portare avanti una battaglia del genere, perché ci sembra coerente appunto con tutti quei discorsi che sentiamo spesso, soprattutto nei momenti di campagna elettorale, rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici, e pensiamo appunto che sia coerente anche con un tentativo di contrastare quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici, immaginare uno sviluppo urbanistico differente delle città in cui viviamo, soprattutto di una città come questa, insomma, che tutti gli anni è maglia nera di consumo di suolo secondo i report dell'ISPRA e degli istituti più accreditati. Pensiamo appunto che ci sia un patrimonio immobiliare già abbondante, diciamo, ecco, sarebbe opportuno riqualificare e rigenerare quello che è stato già costruito, abbandonato, piuttosto che impermeabilizzare nuovo suolo. Ed è questa fondamentalmente la posizione che prendiamo anche rispetto a quelli che sono i progetti presentati sull'area di Torre Spaccata, e in particolare non ci riferiamo, quindi vedrete che effettivamente la nostra grande paura poi è stata confermata, nel senso, allora, sull'area appunto, come diceva Lisa, il piano regolatore prevede delle cubature, già questo è assurdo perché l'area appunto ha un patrimonio culturale notevole, ma anche, diciamo, naturalistico. Questo è il piano regolatore, e queste aree rosa che vedete sono le cubature che potrebbero essere aggiunte. Diciamo sono definire anche secondo, diciamo, coerentemente tra virgolette, tra quella che è un'altra classificazione dell'area, perché l'area rientra come componente secondaria nella rete ecologica di Roma, per cui dovrebbero garantire il mantenimento di un corridoio ecologico. Tuttavia questo tipo di indicazione non è prescrittiva, ed effettivamente consultando la progettualità che stanno mettendo in piedi Cassa Depositi e Prestiti e Cinecittà, che deve essere presentata come un'unica progettualità, come vi dicevo, viene confermato il nostro timore iniziale, ovvero che quello che sembra un progetto magari culturale e occupazionale a valore aggiunto, ovvero il rilancio degli studios attraverso la costruzione di nuovi teatri di posa, in realtà poi alla fine non si rivela altro che un cavallo di Troia per realizzare completamente e interamente le previsioni urbanistiche previste dal piano regolatore. E vi mostreremo come hanno intenzione di farlo, per cui sì, metà del Pratone sarà destinata al rilancio degli studios di Cinecittà, l'altra metà però vedrà sorgere quelle che sono i classici elementi che vengono utilizzati per riqualificare i quadranti, cioè abitazioni private, uno studentato per studenti ricchi fondamentalmente, perché poi funziona così, e un multisala in uno dei due progetti, nonostante qui ci sia un patrimonio di sale storiche che chiudono, multisala, c'è un IMAX, una food court, quindi una food court, la pronuncia è giusta, ok, vabbè, io me la immagino, ecco, me la immagino che cos'è, nel senso non mi aspetto che ci sia la piccola trattoria a gestione familiare, quanto piuttosto, diciamo, i brand più noti. Chiamata food? Food court, ah, la corte del cibo, food court. Non era aggiornato. Come no? Ah, quello perché rientra nel progetto dell'IMAX, perché adesso parlano pure inglese, si dice. Sì, questo è sì, diciamo. E quindi ecco, era quello, fondamentalmente è quello, e c'è secondo noi una doppia ipocrisia, perché in parte lo si fa utilizzando anche fondi del PNRR, quindi fondi che vanno poi ad accrescere tra l'altro il debito pubblico italiano, perché non sono i fondi a fondo perduto, diciamo, sono quelli che accrescono il debito, e in parte appunto rimettendosi al capitale di mercato, per cui diciamo, aumentando i profili di quello che è un progetto di speculazione edilizia. Per cui ecco, noi che ci opponiamo a questo effettivamente cerchiamo di rivendicare al contrario la possibilità di continuare a godere di spazi come questi, ma di goderne veramente, nel senso non chiediamo assolutamente che rimanga nelle condizioni attuali, che se è stato utilizzato come discarica abusiva dovrà essere evidentemente bonificato, ma questo lo riteniamo un nostro diritto e non lo vogliamo scambiare con nessun progetto di speculazione edilizia, e che magari diventi appunto una parte integrante di quello che noi chiamiamo il Parco delle Ville Romane, che è un grande parco di circa 200 ettari che metterebbe in collegamento l'area di Villa Flaviana, che si trova a Cinecittà Est, con il Parco di Centocelle. Quindi un unico grande parco archeologico di circa 200 ettari con 9 ville romane, un sito preistorico, un sito medievale, che sia un luogo a valore aggiunto dal punto di vista culturale, ambientale ma anche economico, che sia uno strumento di mobilità, un percorso di mobilità sostenibile nel quadrante, cose come queste che chiaramente tirano poco dal punto di vista economico, però riteniamo importanti da un punto di vista umano e sociale. Basta. Vogliamo fare un contesto storico? Io volevo solo fargli vedere che magari da questi non si capisce tanto bene, perché è più una zonizzazione del progetto che appunto vorrebbero realizzare tra poco, ma negli anni 2000, diciamo dal 2004 al 2012, ci sono stati dei master plan che sono stati fatti per l'area, proprio per la centralità urbana, e poi non sono mai stati realizzati, di cui hanno anche fatto i render, le planimetrie un po' più dettagliate, e forse fanno un pochino più impressione. Questo era un master plan, non so se... fatto dall'Abix, proprio appunto per il quartiere della centralità urbana, quindi tutto costruito praticamente. C'era pure questo racconto che doveva essere il progetto di ricucitura, quindi hanno disegnato una bella zip. Questa è una strada, non è manco una ciclata, no? Un'autostrada praticamente, sì. Quindi questa per esempio era una visione, questa era un'altra, in cui venivano anche parzialmente considerati per esempio i resti archeologici. Queste macchie che vedete sono, però ve ne parleranno meglio loro. Vabbè, questa è tutta la zonizzazione, sono riferiti tendenzialmente la maggior parte, questi sono i teatri di posa che, di Cinecittà, e c'è un'altra parte proprio degli studios, che è questa in blu che vedete. Questo è costruito, sono gli studios costruiti, e questo è il backlot delle riprese all'aperto, dove però spianano tutto perché devono fare. Quindi quello che rimane è questo corridoio diretto qua. È questo qua che vedete qua, cioè, questo è il parco, tra l'altro l'hanno chiamato Parco Lineare delle Ville Romane, riprendendo il nostro nome. Sono 15 ettari invece dei 58 che sono attuali. Abbiamo già dato mandato ai nostri avvocati di chiedere tutto il copyright sul nome della progettualità, cioè, visto che il Parco delle Ville Romane ce lo siamo inventato noi. Il, no? Parco Lineare, quello. È la pasta parola. Vabbè, parco Lineare. Male che vai e battete un po' di sordi. Tra l'altro, esatto, senza manco una grossa fantasia, perché abbiamo detto parco, no, noi, nel senso, stando nelle Ville Romane, come lo chiamiamo? Parco delle Ville Romane, cioè, nel senso, e magari loro hanno pure pagato uno studio per riuscire a questo. Se in ascolto, che ha detto con grande soddisfazione in Aula Magna l'architettura alla Sapienza. A Roma 3 era. Sì, ma Mose spiega tutto. Allora, no, ha detto: realizza tra i quattro grandi progetti di rilancio di cui parlava Lisa, sulla centralità di Torre Spaccata, 58 ettari verdi inedificati. Ha detto: realizzeremo un parco di 15 ettari. Ah, fenomenale, cioè, nel senso che. Che regalone! Nel senso che. Ammazzo! Non lo so se. Che fate quando studiate urbanistica. Però, cioè, nel senso, mi sembra. Però insomma, creare un parco di 15 ettari su un'area inedificata di 58 vuol dire comprometterne i restanti 43. Vabbè, ma è un parco dove non c'era niente. Sì, infatti, in un vuoto. È un vuoto, è un vuoto. Quindi è sempre un vuoto raggiunto. Forse Milla, sì, Mattia siamo, diciamo, sì, che questo vuoto, ma vogliamo farlo itinerante, ragazzi, però ci dobbiamo dividere. Sì, ci dobbiamo dividere. Quindi... ah, ci dividiamo? Sì, sì. No, ho capito, pensavo solo vabbè, magari possiamo andare sopra la vita. No, più che altro perché lo facciamo un'altra volta. Dobbiamo dare i libretti prima. Allora vai, tanto ci piove. Sì, nel senso, siete preparati per sopportare un eventuale sbrullo? Se siamo pochi posso pure fare tutti insieme. Dai, siamo anche per, però dobbiamo dare i libretti. Ok, sì, distribuiamo i libretti. Ma giusto voi, intanto Camilla e Mattia ci riallarghiamo così. Sì, io ti do una mano. No, diciamo che tra le cose che questo vuoto ospita abbiamo, oltre a più di 150 specie vegetali e più di 150 specie animali che sono state mappate da due membri del comitato che oggi non ci sono ma che conoscono, diciamo, benissimo le specifiche e che troverete nel libretto, perché nella scorsa giornata siamo riusciti appunto a vedere alcune di queste specie e a mapparle sul, sul libretto. In tutto ciò ci sono anche, sono state trovate 4 ville romane che attualmente sono sepolte, quindi non sono visibili, e perché quest'area è stata frequentata dal 4 millennio avanti Cristo, quindi più o meno insomma fino al Medioevo, poi ha avuto una serie di usi, riusi e di continuità, e quindi quello che vorrebbero fare con quel progetto lì è quello di lasciare un corridoietto per risparmiare soltanto un paio delle ville, quelle più grandi, cementificando completamente un'altra che sta lì, che è quella di Via Lizzani e quella del Casale, che invece è in fondo al Pratone, vicino a questo casale appunto moderno. E in realtà il grande mistero dei vincoli qui a Torre Spaccata è che, nonostante gli archeologi della sovrintendenza sia negli anni 90 sia inizio 2000 abbiano scavato e trovato, mappato, e è uscito un volume, diciamo, di 400 pagine di una di loro, in cui viene appunto dettagliata ogni scoperta, non sono mai stati messi vincoli archeologici. E nella carta dell'agro, che è questa qui dell'88, in realtà a Torre Spaccata sono segnate le evidenze archeologiche, poi in realtà ne sono state trovate altre, quindi mancano le principali, però quello che non è mai stato fatto, nonostante sia stato richiesto a inizio, per esempio a inizio anni 2000, è quello appunto di apporre i vincoli. Queste sono le, diciamo, le ville, quindi il vincolo puntuale più quello dell'area di pertinenza, che già, come dire, impedirebbe buona parte, quasi una metà del Pratone di costruire, nonostante in realtà sappiamo che anche i vincoli archeologici non potrebbero scongiurare del tutto il rischio, quindi adesso ci stiamo muovendo per provare a capire se anche da un punto di vista di vincoli paesaggistici ambientali possiamo spingere, possiamo fare qualcosa proprio per evitare o rallentare quantomeno il processo di costruzione. E poi c'è Mattia, che è archeologo esperto, che forse vi parla un po' delle ville. Sì, quindi dicevamo, il Pratone non è un vuoto, no? Non è un vuoto perché c'è tutta storia intorno a noi, e tutta storia sepolta intorno a noi. Abbiamo detto, Camilla ha detto, ci sono 4 ville romane di insediamento preistorico, quindi una tomba neolitica, gente che qui ha vissuto, gente che qui ci ha avuto la propria esperienza di vita, come noi ce l'abbiamo oggi 3.000 anni dopo, e che qui ha scelto anche, no, di riposare con la tomba che Patrizia Gioia ha scoperto qua, con gli scavi archeologici del 96-98 e del 2006. E la vita continua nel Pratone, e continua anche durante la Repubblica Romana. Nel IV secolo iniziano a costruire le ville, che sono delle grandi fattorie sostanzialmente, a scopo residenziale e a scopo agricolo, quindi scopo produttivo. Qua sotto i palazzi dove abita Stefano, proprio tu abiti in tutti i palazzi, non in casa, tutti i palazzi di Stefano, e c'è la villa cosiddetta di Via Lizzani, e dove è stato ritrovato un torcular, quindi un grande torchio per la spremitura delle olive probabilmente, e che serviva anche per la produzione vinicola. Quindi le ville avevano delle differenze dal punto di vista dello sfruttamento agricolo di questo lembo di campagna romana, che poi è sopravvissuto. Qua ce ne abbiamo un'altra sotto i rovi, che è la villa di Via Sommariva, e più giù alla fine del Pratone abbiamo la villa cosiddetta del Casale, che sta qua perché sta accanto al casale di Torre Spaccata, e che nel corso dell'impero viene ingigantita, ingrandita. Evidentemente c'era il proprietario aveva interesse, no, ad avere una grande villa terrazzata. Io dico sempre che lui, cioè, se aveva una villa così grande, con duplice terrazzamento, forse questa era un'area in cui valeva la pena vivere, no? Sotto la Togliatti c'è il fosso di Centocelle, che poi è l'unica cosa vincolata di quest'area, possibilmente dovrebbe essere. Vabbè, oltre al Duas Lauro. Oltre al Duas Lauro, cioè dal fosso di Centocelle inizia il vincolo. E il fosso di Centocelle era un'area amena, no? Era attraversata da questa strada che congiungeva tutto il Pratone, tutta quest'area e tutto questo settore della campagna romana con le ville di Centocelle. Strada che poi è stata ritrovata e conservata, e c'è una villa monumentale anche nel comparto di Centocelle che si affaccia sul fosso di Centocelle, e quindi immaginate cosa doveva essere quest'area 2000 anni fa, cioè un'area privilegiata in cui vivere, ville enormi, ville gigantesche che hanno una continuità di vita millenaria. E invece nel corso degli scavi qui al centro del pratone viene trovata un'altra villa, che è la cosiddetta villa A204, di cui non c'era conoscenza archeologica. È una villa che nasce sempre nel IV secolo e sopravvive anche nel corso del tardo antico, che è un'epoca di cui non abbiamo tantissime testimonianze archeologiche, e averne qui è di fondamentale importanza, no, per capire il primo medioevo della campagna romana. E viene poi sono ritrovati anche degli strumenti metallici XII secolo, anno 1100. Più giù invece la vita continua, crolla Roma, crolla l'impero, casini vari, la vita continua, e nel pratone si insediano delle famiglie, solamente che come ti insedi nella campagna romana non c'hai più la forza politica, la forza economica, no, per costruire i grandi impianti residenziali come le ville rustiche, costruiscono capanne. Quindi trovano, gli archeologi hanno trovato delle buche di palo, che sono la traccia in negativo delle capanne costruite in alzato, e delle impronte. Quindi queste impronte, poi magari trovo la foto, ve la faccio vedere, sono una fotografia, impronte congelate nel limo, perché probabilmente il fosso di Torre Spaccata, che sta più giù intubato, aveva esondato, quindi ha congelato poi queste impronte umane e animali. Ci restituisce un po' una fotografia di cosa doveva essere la campagna romana nell'anno 1000, cioè un luogo tutto sommato tranquillo, in cui forse questo papà, questo bambino, perché sono un adulto e un bambino, camminavano scalzi, no, nell'anno 1000, portavano a spasso il pascolo. Cioè, immaginate, no, adesso fate un tuffo 1000 anni fa, immaginate lì sti due che camminano, dove verrà il famoso grandissimo backlot di Cinecittà. E ecco, quindi abbiamo una vita che scorre intorno a noi, no? E quindi penso sempre che l'archeologia sia qualcosa che sia un lavoro di restituire dignità, e tutto quello che facciamo noi col comitato è anche questo, no? Restituire dignità al gruppo umani, no? Il gruppo umani. Restituire dignità a quegli uomini, a quelle donne che hanno vissuto prima di noi qui 3000, 2000, 1000 anni fa, e che cerchiamo, ecco, di portare avanti, di salvare in qualche modo. Bravo. Allora, distribuiamo. Distribuisco. Sì. Allora, questi sono i libretti che sono il risultato del laboratorio della volta scorsa, in cui eravamo divisi per tre gruppi. L'obiettivo era mappare Bellissimi. Quello che di solito a livello urbanistico, architettonico, non viene mappato, quindi le forme di vita che sono presenti all'interno del pratone, vegetazione, animali e appunto esseri umani, diciamo storia umana, quindi un po' come ha raccontato Mattia poco fa. E alla fine del laboratorio abbiamo fatto la passeggiata divisi in gruppi, e alla fine diciamo nel pomeriggio ci siamo divisi ognuno nel proprio gruppo, e ognuno ha mappato le cose del mondo animale, del mondo vegetale e degli esseri umani che aveva intravisto, e questi sono il risultato, o meglio la rielaborazione che abbiamo fatto per poter stampare in serigrafia. Questi l'abbiamo stampato in serigrafia, e la rielaborazione che abbiamo fatto da queste tre grandi mappe che erano il risultato appunto della volta scorsa. E se vedete ci sta il primo foglio bianco, che è per voi, il secondo foglio che rappresenta invece la mappatura degli esseri umani, e quindi tutti gli usi che sono stati fatti. Ovviamente queste sono mappe parziali, nel senso che derivano dalla mappatura delle persone che hanno partecipato l'altra volta, non abbiamo fatto un percorso limitato perché poi è iniziato a piovere, e comunque rappresentano quello che le persone che c'erano l'altra volta hanno visto, quindi non è una mappatura oggettiva e diciamo tecnico-scientifica, è come dire un po' la restituzione di chi è venuto il 4 dicembre. Quindi abbiamo appunto la parte degli umani, la parte degli animali, tendenzialmente a parte le volpi sono quasi tutti uccelli, e è stato interessante come ogni gruppo in qualche modo ha cercato di restituire anche a livello artistico e grafico all'interno della mappatura un modo diverso a seconda di quale fosse il tema. Adesso non si vede da qui, ma sulla mappa degli uccelli loro, non riuscendo bene a mappare un'area definita, perché comunque l'uccello si muove, vola, si sposta, non c'ha il punto fermo come succede appunto per un palazzo che è costruito lì, e loro avevano utilizzato degli spaghi a cui avevano attaccato le immagini degli uccelli per far vedere che, diciamo, loro l'avevano osservato in un certo punto, ma poi l'uccello si muoveva. Per quanto riguarda le piante, invece, hanno mappato proprio le piante che hanno identificato lungo il percorso e che sono state raccontate da Antonio, che insomma, era il signore che ci ha portato, a parte del comitato, che ci ha portato, che guidava il gruppo delle piante. E l'ultima mappa invece, diciamo, è un po' la cartografia di base, quindi ci sono un po' di curve di livello, ci sono tutti i percorsi segnati che ci sono all'interno del pratone, e in ogni mappa c'è il percorso segnato che ha seguito il gruppo quel giorno, quindi il gruppo delle piante ha seguito questo, gli animali sono andati un po' più all'interno e invece gli umani sono andati più verso il posto di via Palmiro Togliatti. E diciamo che l'obiettivo di oggi è utilizzare questo libretto, quindi il primo foglio è lasciato libero proprio per voi, per prendere appunti, per disegnarci sopra, per scrivervi spunti che vengono raccontati o che cogliete solo per insomma, osservazione o insomma quello che volete. Non vi preoccupate di rovinarli, cioè scriveteci matite, penne, quello che volete, e cioè, sono fatti per essere usati, quindi insomma se non sapete disegnare non importa, insomma andate. E diciamo che ci sarà un momento nel pomeriggio magari in cui riordinare questo materiale e poi sempre nel pomeriggio ci divideremo in tre gruppi. Avevamo pensato di farlo già nella camminata, però forse la camminata è più carino farlo tutti quanti insieme e poi ci dividiamo nel pomeriggio. Però accenniamo solamente ai tre temi che affronteremo nel pomeriggio, in modo che potete già, scusami, guardare le cose con un occhio insomma diverso. Avevamo pensato di lavorare, diciamo, la prima giornata era un po' più questa qui, era più di mappatura effettivamente di quello che c'è all'interno del pratone, per vedere che il pratone non è vuoto, che ci sono altre cose, eccetera. La giornata di oggi invece sarà non proprio progettuale, però un po' più critica, cioè per capire effettivamente cosa c'è all'interno del pratone che ci piace, che insomma vorremmo che rimanesse e che per noi ha un valore, cosa invece sarebbe meglio che non ci fosse o cosa manca e ci piacerebbe aggiungere. E lo faremo su tre temi diversi, che riguardano più o meno tutte quante il tema della mobilità, quindi lo spostamento. Il primo è la mobilità urbana, l'abbiamo chiamata così, cioè in particolare tutti i percorsi trasversali che nella lunghezza del pratone potrebbero connettere i quartieri, che al momento appunto anche uno dei progetti che avevo fatto vedere prima era di ricucitura con questa zip. Poi loro lo fanno con l'edificazione, con i palazzi eccetera, però in realtà come concetto di ricucitura, nel senso che l'attraversamento lo vedremo poi dopo andando al cortocircuito, è molto rapido passando attraverso il pratone, quindi cercare di lavorare anche a livello appunto urbano per gli usi effettivamente civici o collettivi di attraversamento, quindi questo è il primo tema. Il secondo invece è la mobilità ecologica. Il pratone di Torre Spaccata l'abbiamo visto anche prima, in realtà è in continuità, è quello che un po' proponiamo anche noi come comitato, sia col parco di Centocelle sia con un'area, non so se l'abbiamo nominata prima, Villa Flaviana, che sta invece alla coda del pratone. E in realtà fa parte di un sistema ancora più ampio che è la Corona Verde, di cui Stefano magari ci parlerà tra poco, che quindi ha sostanzialmente un corridoio ecologico dove fauna, flora, ma in realtà anche diciamo appunto come carattere ambientale per l'essere umano è diciamo una risorsa fondamentale. E il terzo gruppo non ha un nome ben definito, l'abbiamo chiamato punti di interesse, aree di influenza, in realtà riguarda tutte quelle cose che sono all'interno, oggetti, presenze, costruzioni, il fosso, che sono all'interno del pratone e che hanno appunto, potrebbero essere a livello progettuale poi dei punti di interesse su cui sviluppare il progetto. Quindi questi sono i tre gruppi, teneteli magari un po' a mente, ora poi fate anche le cose in modo libero, appuntate quello che volete, però lavoreremo su questo nel pomeriggio. Corona. Allora, se prendete il cellulare, facciamo un'operazione di situarci un po' in una scala un po' più alta per capire, diciamo, quelle che sono le funzioni potenziali del pratone in una visione più ampia. Quindi se mettete il satellitare su Google Maps, vi descrivo quello che è un po', diciamo, il sistema ambientale nel quale è inserito il pratone. Allora, con l'università, diciamo, mi riferisco al Dipartimento di Ingegneria Civile e di Ambientale della Sapienza e Urbanistica, stiamo facendo un progetto che ha come obiettivo principale quello di sperimentare una modalità di progettazione che è proprio diametrale rispetto a quella che è stata descritta finora, che diciamo è stata abbracciata in generale dall'urbanistica, diciamo, a livello globale e quindi anche a Roma, con degli elementi peggiorativi a Roma, che sostanzialmente è un tipo di progettazione che è definita duale, perché diciamo parte dal presupposto che c'è, diciamo, una componente, la componente esperta e politica, che decide, diciamo, quello che deve succedere nei territori, e dall'altra parte ci sono i cittadini che devono subire queste scelte al limite con un po' di partecipazione per, diciamo, definire qualche dettaglio. Questo è un elemento. L'altro elemento è che si parte da una concezione del territorio come supporto neutro, no? Come supporto neutro che va definito e va, diciamo, costruito dal nulla la struttura dell'abitare. Entrambi questi presupposti sono sbagliati, sono stati sottoposti storicamente a critica, ma non si è trovata una modalità effettivamente alternativa. Noi stiamo sperimentando una modalità alternativa che diciamo parte da una visione completamente diametrale del territorio e quindi dalla dimensione ambientale, fondamentalmente dalla dimensione patrimoniale. Il territorio non è un supporto neutro, è un sistema vivente prima di tutto, ed è un sistema vivente che si è evoluto in una dinamica molto interattiva con la dimensione antropica, e nella sua evoluzione ha acquisito delle forme storiche precise che sono anche, diciamo, delle forme che contengono dei valori, no? Valori che possono riguardare, diciamo, le forme della civiltà, ma anche delle relazioni virtuose con l'ambiente. Queste connotazioni, chiaramente, in una visione come quella attuale si perdono completamente, vengono cancellate, ignorate. Invece, diciamo, la scommessa è di ripartire a questa visione del territorio e dall'altra parte rompere questa dimensione duale e mettere gli abitanti al centro di un modello alternativo nel quale hanno un protagonismo che parte dalla dimensione progettuale, cioè da una conoscenza del territorio fatta di relazione anche sentimentale con quei valori storici e patrimoniali che essi vivono nel loro quotidiano. Allora, in questo senso i cittadini devono essere protagonisti a partire dalla dimensione della progettazione fino alla dimensione dell'attuazione, nel senso proprio della cura e della trasformazione del territorio, cioè devono essere al centro anche delle attività che producono la dimensione dell'abitare. In questo senso, allora, abbiamo fatto un'operazione semplice dal punto di vista teorico, complicata dal punto di vista pratico, cioè abbiamo cominciato a mettere in rete tutti i comitati del quadrante est di Roma, che è un quadrante da un lato molto problematico, anzi il più problematico di Roma, perché è il più densamente abitato, il più inquinato, quello con un microclima più compromesso dal punto di vista delle isole di calore. E quindi in questo quadrante così problematico però ci sono dei valori molto importanti, dei valori patrimoniali, ma dei valori anche sociali, grazie a un tessuto di cittadinanza attiva molto forte, molto attivo, molto intraprendente, come si vede qua in questo contesto. Allora l'idea è stata: ma proviamo a mettere seriamente in rete questi comitati a partire da un elemento che è l'elemento che fa da fondamento di qualsiasi tipo di sviluppo di queste reti potenziali, che vada verso una riappropriazione di questa dimensione alternativa della progettazione e dell'evoluzione del territorio. Quindi siamo partiti dall'elemento della conoscenza, dal condividere la conoscenza nell'ambito di queste reti, e su questa conoscenza abbiamo cominciato a, con questi comitati, a costruire una visione alternativa, ma in un'ottica sistemica. Che vuol dire? Che questo territorio, per quanto martoriato, ha una serie di aree spezzettate con un potenziale elevatissimo sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista, abbiamo visto, storico-archeologico, e l'idea è che bisogna andare oltre questo approccio frammentato per cercare di valorizzare tutto il sistema ambientale. Nell'ambito di questo sistema ambientale, che possiamo chiamare in vari modi, ma diciamo l'ottica è che se uno cerca di deframmentare queste aree come sistema restituiscono tutte le loro funzioni potenziali dal punto di vista dei servizi ecosistemici, quindi della mitigazione degli impatti climatici e ambientali, della dimensione antropica, ma anche una funzione ecoricreativa, una funzione culturale importante e sociale di, come spazi pubblici anche di aggregazione. Quindi in questo senso c'è un potenziale enorme, e questo potenziale è fatto di aree che, se riconnesse, formano una sorta di corona intorno al quartiere di Centocelle. Quindi il Pratone è una di queste aree fondamentali per ricostituire questo sistema ambientale unitario, e in questo senso il tentativo che stiamo facendo è, insieme ai comitati, di costruire questa visione, perché la politica ha invece un approccio a piccoli passi, del tutto miopi, che poi, trascurando questo elemento fondamentale, legato a un sistema ambientale organico e unitario, espone le singole aree poi a un approccio completamente diverso, che favorisce invece interessi economici, privatistici, che in qualche modo poi minacciano ulteriormente questa potenzialità all'interno del quadrante. Quindi il Pratone riveste una funzione fondamentale per ricostituire questi lembi sparsi, che comunque hanno ancora la possibilità di essere ricomposti. In questo senso il lavoro che faremo con il gruppo è di andare a individuare dove ci possono essere dei punti dove è più possibile, mettiamo così, la riconnessione ecologica con altre aree, e fare questo lavoro di deframmentazione a livello ambientale complessivo. Allora, come avrete capito, nel nome di Stefano non c'è il dono della sintesi, né io né lui riusciamo a essere sintetici, quindi vi consiglio, per la vostra sopravvivenza, di non farci domande nel corso dell'escursione, se no non usciamo più dal Pratone e non mangiamo neanche la pasta e fagioli. Okay. E c'è a parte gli scherzi, nel senso, il discorso che ha fatto Stefano appunto è fondamentale per noi, perché ci inserisce all'interno di un discorso in cui il verde appunto viene considerato come una vera e propria infrastruttura e messo a sistema, e così è anche molto più forte rispetto alla difesa appunto da quegli interessi particolari di cui parlava Stefano. Io direi iniziamo perché noi rimaniamo qua tutta la mattina a parlare in circolo e facciamoci questa passeggiata, saremo un unico gruppo e dai, entriamo dentro al Pratone. No, qua prevede la rotonda, no? Qua sulla stradina, villa. Sì, stradina. Stradina. Qua c'è il corridoio. Sì, che nel progetto che hanno in mente diventa carrabile per lunghi tratti questo. Perché comprendono la A204 che sta più o meno qua. Sì. Come comprendono la A204? La villa. Ci fanno parco sopra, no? Sì. Sembra che ci facciano. Sì, no, è il pezzo del lembo dei 15 ettari. Di quel corridoio. Cioè, lo comprendono il corridoio verde. Sì, sì. Sì. In realtà è possibile collegamento con Astra 8 sotto, che è l'area di antistante della villa di Sette Basso, no? Sotto la villa. Le offrite servizi a livello costante dal quartiere, insomma, carti di cantiere e quant'altro. perché comunque l'area è stata utilizzata nel corso del tempo pure come deposito, come discarica dei materiali di risulta dei cantieri edili. Cioè quando hanno costruito il Lamaro, da quello che ci spiegavano, in realtà quando si espandevano verso est scaricavano il materiale di risulta nelle aree che non erano ancora edificate, cioè quindi tutta l'espansione della città in questo senso, cioè verosimilmente tutti i quartieri intorno sono costruiti sopra ad aree che erano state utilizzate precedentemente per questo, quindi sono più o meno recenti. E poi l'attività di discarica di rifiuti è proseguita nel tempo, prosegue tuttora, perché non c'è nessun tipo di, diciamo, di tutela da parte della proprietà, ma nel senso che c'è un servizio di guardiania che fa il possibile, ma evidentemente non è abbastanza per evitare questo tipo di situazioni. E ma fanno solo vigilanza o puliscono anche? Solo vigilanza, guarda, cioè nel senso è... fanno solo vigilanza e non puliscono, al massimo sfalciano le aree perimetrali per evitare che gli incendi che si ripetono tutti gli anni diventino troppo pericolosi per chi ci abita intorno. E diciamo che, ecco, non sembra neanche troppo casuale che un'area come questa, su cui ci stanno interessi così grandi, venga lasciata in questo stato. Nel senso che poi sì, un'area verde, però è pure un'area che è fonte di tanti problemi per la gestione che ne viene fatta, per cui magari pure chi ci abita intorno comincia a pensare, vabbè, sai che c'è? Piuttosto che essere il posto dove ci buttano l'immondizia, dove ci avranno buttato chissà che cosa, magari anche di rifiuti non possiamo escludere, pure pericolosi in un certo senso. Sì, ma qual è la strategia? Esatto, sembra che faccia parte appunto di una strategia in cui ci si disaffeziona e dice vabbè, a quel punto tanto vale che ci fanno sopra qualcosa piuttosto che lo lasciano così. Ma appunto lasciarlo così non è neanche il nostro obiettivo, valorizzarlo in un senso archeologico ambientale, sì. Ecco, e se questo significa doverlo bonificare, perché ci stanno dentro i piedi pericolosi, cioè la bonifica verrà fatta, cioè non è qualcosa che si può, su cui si può discutere, visto che delle volte verificare quella che è la stratificazione del terreno per l'eventuale presenza di rifiuti pericolosi all'interno del terreno, perché nessuno può escludere che ci siano, nel senso, anzi, tutt'altro. Come hanno fatto al parco di Centocelle quando hanno scoperto, no, la discarica che c'era dietro l'area degli autodemolitori, praticamente lì hanno sgomberato due campi nomadi e poi è uscito fuori che dallo sgombero dei campi nomadi il materiale distrutto non veniva portato in discarica ma veniva abbandonato dietro gli autodemolitori. Hanno fatto i carotaggi in diversi punti e hanno verificato uno stato un grosso rischio, l'hanno definita la terra dei fuochi di Roma, insomma. Sì, concentrazioni di distanze. Sì, sì. Per cui nel senso, cioè, non è che viviamo in un paese in cui questo tipo di storie non sono mai successe. Ecco. Pertanto ci dispiace, perché delle volte strumentalmente c'è chi ci dice ah, ma non parlate della bonifica, non dite che dentro ci stanno i rifiuti, cioè lo diciamo, nel senso, ed è sicuramente un aspetto fondamentale che va considerato, ma non può essere, cioè diciamo, voler bonificare l'aria dal punto di vista della sicurezza ambientale non deve essere un errore. Si prosegue per il paio. C'è l'albero là? Sì, non può, c'è stato un altro piccolo percorso. L'alberello là. Non deve voler dire in nessun caso doverla sacrificare a un progetto di cementificazione. Cioè, alla fine è il nostro diritto, no? Vivere in un ambiente salubre, è giusto pure richiamare all'attenzione di questo la proprietà, che invece viene interpellata spesso solo quando c'è da parlare dell'aria in termini di valorizzazione economica, cioè sarà la responsabilità di qualcuno se quest'area è diventata magari una discarica nel tempo, no? Perché devi parlare con quell'interlocutore solo quando gli vuoi far guadagnare sulle zone? La proprietà adesso, forse mi sono questa parte. Sì, allora, di 58 ettari, 48 sono di Cassa Depositi e Prestiti, mentre la restante parte è frazionata tra piccoli privati. Ad esempio quella che poi dopo vedremo, che è chiamata l'area della buca. Ah, anche piccoli privati. Piccoli privati. Domenico, Fermiamo un secondo. Piccoli privati che... Non gli pare vero che adesso sono andati in questo progetto che potrebbe voler dire una bella rendita. Se guardate la carta questa blu degli umani, ci sono due segnetti. La carta degli umani. Ci sono due segnetti convergenti, una doppia linea da una parte e una dall'altra vicino al numero 9. Dove c'è, vedo i colli albani. Esatto. Allora, vedi, quelli sono i resti che sono stati trovati quando hanno fatto gli scavi negli anni 90 per, e hanno scoperto tutte le altre ville. Sono i resti di un diverticolo, una strada che in realtà collegava tutte le quattro ville all'interno del Pratone, ma passava anche quello che allora era il Fosso Centocelle e oggi invece via Palmiro Togliatti, quindi la strada che avevamo, non so se ci siete passati venendo. Attraversava il fosso e andava collegando le altre tre ville che sono presenti all'interno del parco di Centocelle. Quindi queste, scusami? No, sono queste tracce qua, questa in particolare, quella che continua parte da di qua. Esatto, e passava così vicino a Villa Via Lizzani e attraversava il fosso, quindi scendendo, risaliva sul pianoro e ricollegava tutte le altre tre ville che fanno parte del pianoro di Centocelle. Quindi tre, è stato tre ricostruito o più. Con esattezza? Tre o più. No, no, in realtà il percorso adesso, se loro archeologicamente hanno costruito, non so se tracciato, hanno potuto probabilmente collegare. Poi però c'erano tutta una serie di... loro probabilmente usavano dei fossati, perché sì, mi ricordo questo qua, ecco. Esatto. Mm-hmm. Vedete dove c'è il 17, no? Il 17 è la villa 204 che sta qua, proprio al centro. Sono fuori, sono quelli fuori. Questo lineare. Questo, che questa, questa, esatto, questa lineetta obliqua, quello era un fossato che veniva utilizzato come, come via di collegamento. Che avevano ipotizzato pure poi delle strade trasversali. E poi questa evidentemente è la via che mano a mano viene. Cioè, loro deducono che questa via ha una importanza notevole nel corso dei secoli, cioè secoli questa trasversale, non ha, questa trasversale perché questa villa nel corso dei secoli, appunto qua parliamo di centinaia di anni, questi tengono sempre l'ingresso sullo stesso punto della loro villa e lo monumentalizzano sempre di più. Quindi c'era la via che andava verso qua, che saliva. Cioè significa che c'è un'importanza simbolica. C'è un'importanza simbolica, sì. Lisa, funzionale. Fate rivedere magari alzandolo il punto di cui state parlando. Allora, le due strade, cioè il punto in cui si riporta la strada è il punto tra 17 e 19. Vedete dei puntini paralleli? Tra 17 e 9. Tra 17 e 9, scusate. Dove c'è scritto vedo i colli albani. Ci sono quelle doppie linee parallele che vanno nella direzione tratteggiate, quelle piccoline, esatto, quelle convergenti, un triangolino tratteggiato. Okay. Allora, quella collegava tutte quante le ville fino alla via del Casale, ma passava anche verso, sorpassando quello allora era il fosso di Centocelle, che c'era tutto questo sistema di fossi che veniva dai colli albani e arrivava, va verso nord e si dirige verso l'Aniene. E tutto questo sistema di fossi in realtà con l'urbanizzazione dagli anni 40 in poi, in realtà particolarmente anni 60, sono stati mano a mano tombati e sul letto del fiume è stata fatta la strada, quindi tutte le principali vie dal Pigneto, quindi via della Marranella, via dell'Acqua Bullicante, via della Primavera, via Palmiro Togliatti, erano tutti vecchi fossi prima, che poi sono stati tombati e... Via Belon, via dei Casacalda, e poi via e uno di questi fossi è il fosso di Torre Spaccata, che non essendo il Pratone ancora urbanizzato, vedremo tra poco, non vediamo l'acqua perché l'acqua è stata deviata, c'è un punto in cui si può sentire, però c'è proprio la cosa forma del fosso del giardino, quello è l'unico che è rimasto fuori. Che cosa? Il fosso del giardino. Sarebbe? Giardinetto. Che poi prosegue sotto la metro C, esatto, va nella e diventa fosse di tre teste e se ne va appunto. Poi là si incrosta dopo la metro C, diventa proprio un torneo. Sì. Quindi quello non è stato tombato. Quello non è stato tombato. Fino a Mari salta cresce la stella. Mentre anche il garden è risalito. Quindi è che quello che sale accanto a Via Longoni, per capire. Esatto, la pista ci passa sopra. Di fossi parlano di vecchi corsi d'acqua. Ci si vede bene la salita. Sì, tra la zona accanto all'università di Tor Vergata. Quindi quello poi sfocia sul Niene. Il grosso dei pesci si sono fermati là, sotto la metro C. Non ci sono mai arrivato fino là, però. Ok, vogliamo proseguire? Proseguiamo? Sì. Quello è un ramo della rete ecologica. Allora, se serve che andiamo a prendere qualcuno... Senti, è sotto l'acqua che scorre. Infatti questi erano i due punti che avevamo trovato l'altra volta. Poi mi faccio vedere. Stiamo più o meno... Allora, secondo me siamo qua. perché l'acqua, questa deviazione che è stata fatta, si è vista in qui, come stiamo facendo questo per... Stiamo andando nel qua. Dove hanno deviato il fosso di Torre Spaccata, cioè, l'acqua non scorre più nel fosso che attraversiamo tra poco, ma l'hanno deviato. Se vedete sulla mappa blu ci sono i punti acqua, in realtà il nostro è un terzo punto che non è segnato in corrispondenza della strada, e se ti avvicini con l'orecchio dovresti. Che vi dicevo, chiedendogli semplicemente di aprirci un passaggio ufficiale, tipo un cancello che dopo vedremo, che sta vicino alla trattoria che sta lì all'inizio da dove siamo entrati, chiedendo così almeno pure per collaborare, per valorizzare. Ci hanno risposto di no, fondamentalmente perché l'aria non è, cioè, per morire di sicurezza, certo. Come che c'è lo straccio primo, chiaro, lo straccio uno che è del PAC, cioè io non visitabile, capisco. Cioè, è tipo, cioè, vabbè, comunque... il canalone, il caserino 700 è proprio chiuso dall'ordinanza della Raggi, sì. Novembre 2016. Diciamo che facciamo gli eventi, pure un po' in quel discorso di botanica, del... lo stesso, discorsi di sicurezza, cioè l'hanno chiuso, sono arrivati, è arrivato un amico nostro a sfrullinà, perché ha detto, quando hanno chiuso dal quadrato, perché ha detto qua, quando si chiudono in un anno si creano cataste di rifiuti e roghi. Quindi è meglio che la gente ci cacci il cane, che la gente non abbia paura a passarci. Poi, cioè, tipo, ci hanno sempre avuto là un laboratorio degli aeromodellisti e non gli hanno mai detto niente, quindi perché ai comitati. Comunque è stato sempre percepito come un posto di cui avere paura. Sì, lo giriamo. Lo giriamo tutto. Con tutto che è un peccato non poter arrivare qui nel centro. È un po' invalicabile. Stamattina pure stavo con il computer. Del piano Fanfani, e per cui un progetto urbanistico molto articolato, c'erano 10 architetti coordinati da Plinio Marconi e diciamo architettonicamente anche gli hanno dato una conformazione particolare rispetto a poi a quella che è la realtà dei quartieri che sono sorti intorno, che la maggior parte sono nati senza piano regolatore e poi sono stati condonati nell'abusivismo edilizio. Quindi questa prima parte è la parte storica del quartiere, e qui ci troviamo vicini alla via di Torre Spaccata, che è un'altra arteria che collega la Casilina alla Tuscolana fondamentalmente. E ancora qui, diciamo, come dicevamo prima, questo punto potrebbe essere un punto di comunicazione tra due quartieri, quindi il quartiere di Cinecittà Est e il quartiere di Torre Spaccata, che attualmente sono raggiungibili solo in macchina, così come, diciamo, i collegamenti trasversali permetterebbero di collegare Torre Spaccata all'Amaro con un percorso che dopo faremo a piedi, che è brevissimo, si tratta, cioè, a seconda del punto da cui passi si tratta di pochissimi minuti a piedi, mentre attualmente per raggiungere un quartiere è necessario prendere la macchina o un mezzo di trasporto pubblico, che sui tempi d'attesa vi lascio immaginare, o la macchina, appunto. Quindi allargando il giro, aumentando il traffico di mezzi privati e quant'altro, invece, piuttosto che con una passeggiata, questo perché chiaramente l'area è recintata e non è liberamente accessibile. Ciao, benvenuta. Buongiorno. Ciao. Ciao. E vai lì. Sì, aspetta, che do una cosa sola. No, una cosa sola, che praticamente qua, secondo il progetto di Cassa Depositi e Prestiti, mettono questo tappo mostruoso dei teatri di posa di Cinecittà. Tutta questa cosa azzurra lascerebbe fuori un piccolo pezzetto, giusto, no, neanche qua mi pare. Quindi sì. Il teatro di posa è lì. No, sì, qua. Sì. Diciamo i teatri di posa tappano qua, e praticamente bloccano il collegamento trasversale, ma bloccano poi la vista sui Colli Albani, fanno un tappo paesaggistico. Allora, il concetto è che dal Parco di Centocelle, che è diciamo, la continuazione ideale, noi c'è la Togliatti, ma non c'è nessuna distinzione tra questo pezzo di territorio e il Parco di Centocelle, fino all'ex SNIA in alto, è tutto un susseguirsi di piccole aree verdi che ora sono o abbandonate o private, utilizzate per piccole produzioni, eccetera. E tutto quel comprensorio, che si chiama comprensorio Casilino, è tutelato da un vincolo paesaggistico molto importante, a duas lauros. Cioè, perché quel vincolo paesaggistico non l'hanno messo anche al Pratone? È la domanda che si fatti a più riprese, perché non c'è nessuna distinzione qualitativa. Sta parlando di tutta questa zona qui. Esatto. La SNIA è questa. La SNIA è questa, tutta questa roba qua. Voi ci avete... No. Noi siamo, questo è il Pratone. Qui ci avete Villa De Santis. Ci avete pochi parchi istituiti, no? Ci avete Villa Gordiani qua e Villa De Santis qua. Il resto qua è Parco Somaini, detto impropriamente parco, perché è parco solo una piccolissima parte che è anche chiamata diversamente Parco Arafat, ok? Poi qui c'è tutta una zona meravigliosa, ma semi-abbandonata, vi consiglio di andarci a esplorare, che c'è un potenziale enorme perché c'è un fronte ora chiuso che dà verso la metro Gardenia, mi pare, no? E quindi tu c'hai come possibile congiunzione, anche dal punto di vista della mobilità, una cosa che in 10 minuti nemmeno di bicicletta ti risale dalla Prenestina fino alla Casilina e oltre, alla Tuscolana. E qui questo territorio è tutto tutelato, tutto verde pubblico e servizi, con vincolo paesaggistico, e il Pratone no. Esatto. Quando è esattamente identico dal punto di vista ambientale, dal punto di vista di preesistenza storico-archeologico. Cioè, come mai? L'abbiamo scoperto come mai, perché c'è una storia strettamente vincolata a delle grosse concentrazioni di rendita tra pubblico e privato, che si sono passati la palla negli anni, ma nel passarsi la palla, cioè vendite reiterate, che è successo? Che il pubblico ci ha sempre rimesso, no? Io, il privato compra a due spricci da un altro privato e poi gli vende al pubblico alto, poi se ricompra un pezzetto e poi lo rivende ancora più alto. Questo significa che hai accumulato nel tempo un debito che dice: oddio, che faccio? Non ci costruisco? Gli ho regalato tutti questi soldi al privato, e questa è la dinamica che si è prodotta. Ed è l'unico discorso che può giustificare il fatto che Cassa Depositi e Prestiti, che è partecipata all'85% dal Ministero dell'Economia e Finanze, non prenda in considerazione nessun utilizzo alternativo rispetto a una valorizzazione in termini urbanistici, come la considerano loro, dell'area. Perché altrimenti è inspiegabile, nel senso, tutte queste parti frammentate qui sono effettivamente nuove cubature che loro prevedono di realizzare sull'area. Ed è veramente, diciamo, l'unica cosa che può giustificare un intervento di questo tipo è il fatto che devi valorizzare qualche cosa che hai scritto in bilancio come un bene ammortizzato, come un terreno ammortizzato, che ti ha comportato in passato un grosso costo, una grossa minusvalenza, anche perché, come diceva Stefano, poi nei rapporti con privati lo Stato ci ha sempre perso. Per cui adesso l'unica possibilità che hai fondamentalmente è vederci costruire sopra. E ecco, quel passaggetto, diciamo, al volo? Sì, nel senso... Cioè che la politica è complice di questi meccanismi in cui lo Stato regala soldi al privato. Ecco. Perché praticamente quando è stato approvato il PRG c'è stato uno snodo importante, l'ultimo piano regolatore, c'è stato uno snodo importante in cui sono stati, diciamo, è stato approvato uno schema rispetto al PRG che abbassava le cubature, che inizialmente erano le cubature di previsione edificatoria, le abbassavano perché inizialmente erano stellari, mostruose, no? E il giorno prima di abbassare queste cubature, anche in seguito a una mobilitazione che c'è stata, anzi no, proprio in seguito a una mobilitazione c'è stata, il giorno prima il privato vende allo Stato al massimo della valutazione con le cubature precedenti. Quindi praticamente Lo Stato ha acquistato poco il giorno prima che si abbattesse il valore. Ha acquistato un pacco praticamente, ha acquistato un'area che, sulla quale poteva costruire molto di meno al prezzo che avrebbe dovuto pagare appunto per l'area con le piene costruzioni realizzate sopra. Ma è diciamo un discorso che poi questo si ripete, come abbiamo visto ricostruendo la storia del Pratone da questo punto di vista, da sempre fondamentalmente, e i nomi che sono coinvolti in queste dinamiche sono anche importanti a Roma. All'inizio si parlava del marchese Gerini, che era imparentato con la famiglia Torlonia, infatti molti abitanti del quartiere conoscono questo come il casale dei Torlonia, dicevano da ragazzini giocavano al casale dei Torlonia. Questo marchese Gerini, Alessandro Gerini, a Roma è noto come il costruttore di Dio, perché fondamentalmente aveva tutto questo patrimonio di terreno qui nella parte sud-est di Roma, ci ha fatto costruire sopra i più grandi quartieri, ogni volta che costruiva un quartiere regalava una chiesa ai salesiani, per cui era il marchese di Dio in questi termini qua. Lui viveva così, insomma, il suo rapporto con la fede. Tra l'altro se lo cercate c'è sta una storia sul momento successivo alla sua morte, la spartizione del suo padre. Lui è successo l'inferno. Esatto, è successo l'inferno perché non ha... Guarda che è il gheppio quello? Quello è il gheppio, è il gheppio in caccia. Dai, che figata. Sappiate che io ogni volta che vedo un esemplare di avifauna dico che è un gheppio, perché non è un gheppio. Non c'è un gheppio. Una volta ci prenderai. No, sembra troppo. Poi Mattia se lo dice ce l'ha. È più alto. Io ogni volta faccio, guarda, un gheppio. È gabbiano. Vabbè. E quindi niente, vabbè, proprio per, vi dicevo, questo Gerini, andate a leggere la storia dell'eredità dei Gerini che fa ride. E niente, e proprio per concludere, questo che dovrebbe essere un corridoio ecologico, appunto dai Colli Albani al centro, che attualmente in un certo ancora lo è, nell'idea appunto degli sviluppatori di questa progettualità, il corridoio ecologico si riduce a questo. Ok? Quindi tutto il resto diventa parte della centralità urbana di Torre Spaccata, quindi teatri di posa, e il progetto sono 8 teatri di posa, secondo le parole di Maccanico, che è l'AD, grandi almeno come il Teatro 5 di Fellini, che è il più grosso di Cinecittà. È enorme. E comunque quando abbiamo assistito ai progetti di ristrutturazione, alla presentazione del piano di rilancio di Cinecittà, che prevede anche interventi all'interno, dicono che questi teatri di posa possono essere alti anche più di 20 metri, per cui ecco, da un punto di vista ecologico... quella poi è l'area dei backlot, che è la parte davanti, le scenografie mobili. Una roba tipo quella al doppio di larghezza. Sì, ma pure nel senso in altezza 20 metri, più di 20 metri, questo qua è una palazzina di tre piani. Allora, stiamo più o meno così, diciamo, ecco. Più o meno all'incirca quello. Sì, un terzo più alto e il doppio di larghezza. E niente, quindi questa è l'idea di corridoio ecologico che hanno loro. Siamo arrivati al casale, che diciamo è tra l'altro c'è pure da dire che, se non sbaglio, poi magari Patrizia Gioia, che è l'archeologa che ha diretto gli scavi e che dopo si viene al pranzo, ci potrà pure dire meglio lei, ma se non sbaglio la parte che è, diciamo, contigua a Via Pellizzi non è stata indagata archeologicamente con lo stesso dettaglio di tutta l'area su cui hanno fatto solo qualche carotaggio. Dicevo io che, parlando di questa cosa, mi hanno detto che mentre costruivano i nostri palazzi hanno trovato sotto. Sì. Quindi sicuramente. No, cioè, tra l'altro, anche... guarda, per dirti, Mattia mi prendeva in giro sui palazzi. Esatto. Mi prendeva in giro sui palazzi di Via Pellizzi. Sono carotati, ma lì c'è tutta terra di riporto. Ci sono 10 metri di terra di riporto. C'era troppa terra. Quindi se vai a smuovere, evidentemente altro patrimonio archeologico è là sotto. Come c'era anche ascoltato, le ville sono ogni 200 metri, quindi per forza ci deve stare. Sarà la villa di Via Pellizzi lì sicuramente, la villa del Pewes. Infatti noi diciamo il Pratone ce n'ha 4, ma chissà quante ne ha davvero. Pure 100 celle, ce n'ha 3, ma chissà sotto l'aeronautica che c'è. Sì, infatti. Ma in base ai tracciati si può ipotizzare la posizione. E in base anche alla rendita fondiaria, in base alla proprietà fondiaria si può. Ma facciamolo, diciamo che qua c'è un'altra roba, non rompete. Si può pensare. In base alle ipotesi, no, che potrebbe essere. Guarda, per farti stare tranquilla, queste case di cui parlava Mattia, quelle di Galizzani, dove abito io, quelle gialle che stanno sopra la carità. Mi hanno raccontato che tutto il piano di sviluppo di quelle case prevedeva dei garage, dei posti auto sotterranei. hanno scavato lì, hanno trovato un castrum romano lì a Via Rizzani, hanno ricoperto tutto, ha detto vabbè che era ce ne rifamo. E hanno fatto poi tutti. Fatti, hanno detto vabbè non abbiamo visto niente. Esatto. No, da noi no, hanno detto vabbè facciamo tutti i piani piloti come voleva Le Corbusier, no? Abbiamo imparato dalla lezione di Chiappe. E qui hanno fatto questi palazzi così. Però per dirti, evidentemente qui dove scavi c'è sta l'inverosimile. L'unicità di questo posto è che ancora non è edificato, quindi effettivamente quello che c'è potrebbe essere valorizzato. Probabilmente quella... Era fatto per... Allora, aspetta, ci hanno spiegato che la parte... Cioè era tutto piatto da quanto dicevano, raccontavano. Sì, la morfologia del territorio dovrebbe essere cambiata in base all'impronta, all'attività umana che c'è stata sul pratone, che è stata fondamentalmente quella di portarci materiale, detriti. Non solo, però ci sta pure la parte, diciamo, la cresta che si trova, diciamo, l'orografia che vedete tratteggiata era quella originaria. Ok. Invece questi segni tipo a pettine che vedete qua sono i riporti, quindi in realtà non sono più congruenti, cioè è una sovrapposizione. Ma questa chi l'ha fatta? Noi. Queste sono le curve originarie prima dei riporti del piano del topografico, mi sembra dei primi anni del Novecento. E invece questi qua è la CTR di adesso, quindi sono tutti i riporti che invece hanno, appunto, sono tutte le valli. Ma quindi nella CTR hanno rilevato i riporti? Hanno rilevato i riporti, sì. Quindi avete combinato la carta storica. Esatto, cioè se IGM, vedi questa è l'IGM. Quella è l'IGM. E se tu vedi questi tratteggiati, questa era tutta la forma del fosso, cioè le curve fanno tutte così, queste tratteggiate così. E questa qua è. Sì, esattamente. Cioè queste, se tu le continuassi qua, facevano così a U perché prendevano la direzione del fosso. E lo stesso vale per il fosso di Centocelle di qua. Ah, quindi questa sarebbe una U delle linee. Noi abbiamo fatto questa, tutte così, sì. E era la direzione di questo fosso. Lo stesso vale per queste. Quindi quella roba c'era, perché lì la vedo. Quello è il fosso, sì, no? No. Ah, quello è il fosso. Quello così alto lì? Sì, no? Da dove siamo passati? Quel rilievo, quel costoncino lì. Quel costoncino è il fosso. Ma tra l'altro ci parlavano di quella cresta era stata fatta per appunto nel momento in cui il fosso era in superficie, no? In realtà dici la strada. Esatto, quella. La strada sta qua. È questa. Esatto. Da questi alberi che vedete tutti in direzione del fosso. Il fosso però è giù. Questa, quella linea lì mi pare più questa. Ma queste non è sono di curve riporto. Di livello di un metro. Questa semmai potrebbe essere. Ah, e quindi è questa di riporto, quella lì. Quella potrebbe essere. Ed è probabilmente dove dicono che non hanno scavato perché ci sono 10 metri di riporto, potrebbero essere 10 metri, che se quelle potrebbero essere 10 metri. Sì. Quando riporti la terra sopra. Ma volevamo andare verso il casale? Sì. Sì, io non ci so. Ma se riesce a entrare? In questo punto doveva sorpassare il fosso, l'hanno fatta sopraelevata. E adesso ovviamente non è più una strada, però c'ha questa conformazione proprio perché era stata riportata la terra. Il casale non ha nome. Dobbiamo trovare un nome a questo casale. Diciamo sempre casale. Andiamoglielo, dai. Casale Gioia, l'avevamo ipotizzato. No! Vabbè, non contate sulla nostra fantasia, se no chiamo il casale delle ville romane. Casale, ok, casale dove sperbando. Che cosa? Sì, adesso. È vero. Vai oltre. Forse dipende da appena diventato il casale del No, non gira. No, io l'ho visto quando vado. Volendo quella che porta proprio al casale. Potremmo chiamarlo casale della, non so se è un melo, non so, esatto, casale. Casale del ghiaccio. Casale del ghiaccio. Casale del ghiaccio. Casale del ghiaccio. Casale del ghiaccio. Ma è fantastico. Grande camion. No, non è mai mio. Io ho pensato a un che c'era il ghiaccio, la cosa che non era un ghiaccio. È quello che mi dicono adesso. Perché lo chiamavano il casale di Torlonia perché sti gerini si erano imparentati con i Torlonia attraverso un matrimonio, E praticamente quindi rientra in quella parte dei Pratone che si sono venduti i Gerini e i Gabbassi, che erano dei costruttori milanesi. I Gabbassi poi l'hanno venduta a metà allo Stato sotto la forma dell'Iri Tecna, la vecchia società del gruppo Iri. Poi è passata a Fintecna, poi la proprietà totale dell'area è andata nel bilancio dei Cassa Depositi e Prestiti a seguito di operazioni varie. Per cui questo rientra in quel perimetro e, se non erro, sembrerebbe pure una parte destinata a verde pubblico nella progettualità loro, introdotta da un parcheggio. Ma è questo uno? Ah sì, verde. È verde pubblico, dai. È questa, no, l'area VCC, cos'era? VCC è l'area di verde di Cinecittà, perché questo l'acquista Cinecittà pubblica, però mentre questo C2 diventa verde privato. Fa abbastanza sicuro, di backlot questo, sì. No, me lo sono rivisto. Questo è tutto il V così, verde blu bluet. No, il turchese tipo è il verde pubblico. Casale del Gheppio. Usato gli stessi colori per non far capire bene. Sì, qual è verde pubblico, qual è verde privato. E non lo so, ecco, qui uno si potrebbe sbizzarrire, secondo me, sui progetti di recupero del casale. Sì, immaginarlo magari, no, destinato a attività sociali che ci mancano pure nel quadrante, visto che ci abbiamo poco, soprattutto nel Torre Spaccata. Già voi magari all'Amaro qualcosina di più, però qualche esperienza, guarda adesso, qualche esperienza è nata lì, ma al di là di non, cioè, parlo pure di cose semplicemente che partono dal basso, c'è sempre stata qui a Torre Spaccata, solo cose che partono dal basso. Qui a Torre Spaccata invece, da un certo punto in poi storico, è cambiato un po' il corso delle cose, pure un po' per quella che era poi la composizione di chi abitava il quartiere, nel senso che non si prestava particolarmente a quello, quindi passato il periodo degli anni di piombo è andato un po' scemando, e poi effettivamente probabilmente pure per come è fatto il quartiere questi spazi non ci stavano nemmeno. Però insomma, dai, questo è particolarmente suggestivo, sorge intorno poi tra l'altro un'area industriale, perché qui sul Vietore Spaccata ci stanno tutte attività industriali, molte delle quali dovremmo pure capire se siano ancora attive o se siano semplicemente abbandonate, e rappresenterebbero uno di quegli esempi in cui, che ne so, si potrebbe pensare di rigenerare il patrimonio urbanistico già presente, come altri che abbiamo già, diciamo, portato in evidenza. Ma sui quali comunque non siamo, no, ma perché per e quindi la utilizzano come parete per l'arrampicata da certi ragazzi, ci hanno messo gli aggrappi, come si chiamano? Le prese. E ci fanno l'arrampicata. Non so quando, a che ora, io non ce l'ho mai visti, però. Noi passiamo da qua, sentivo sentierino. Sì. Figo però, insomma. Poi chissà che era a scoprire. Io mi chiedo se strada fallita, però. Secondo me pure. C'è qualcosa al filone dell'autostrada, però. Però sì, che fa il filone con te. Cioè, ma usciamo dal filone. Non è che devono essere tutti ciclisti, ma l'intermodalità degli scambi, insomma, non è più procrastinabile. Invece che fai? Continui a dargli spazio in quei termini. Io veramente non so. Manca a dire che veniamo da 60 anni di scelte urbanistiche sbagliate, no, in città? No, infatti. Del sistema paese e del sistema città, sempre influenzata da lobby del potere economico fortissimo, cioè. Stanno pensando solo a quello, all'avanguardia nel trasporto ferroviario da fine 800 inizio 900, poi buco nero cinquantennale del sviluppo solo della rete autostradale a Roma smontata. Quello però in realtà è una cosa, cioè, non sono a Roma, non sono in Italia, sì. Ho visto delle mappe come adesso. tempo, li ho frequentati quando ero più piccolo e nessuno aveva idea di quello che era quest'area, nel senso, nessuno ce n'ha mai parlato, nessuno ci ha mai detto niente. Però ecco, insomma, pure per quei ragazzi che frequentano quella scuola sarebbe bello. Dove? Questa qua, alla Rugantino, che mo si chiama Rugantino. Che bello, ci vuole anche frequentato. Sì. No, io sarò lì fino a fine anno. Da quando? Sono supplente comunque annuale. Da sempre seguo con interesse il primo parco che deve essere aperto interamente in zona, ovvero quello di Centocelle, cosa che avviene per assurdo, magari c'è una logica. Si sono attivati in forza con tot comitati sul Pradone, oggi che su 57 ettari ben 49 sono in mano pubblica, dove al momento l'unico progetto è quello di realizzare nuovi studi di Cinecittà, che ricorda anch'essa pubblica. Quindi ad oggi palazzinari affini, che hanno costruito il 90% delle case dove abitiamo noi, non ci sono. Cioè, noi siamo parte di un complotto. Cioè, noi dice, comunque, comunque è pubblico. Questo chi è? Una persona, un tizio che continuamente, poi io lo invito sempre, vieni ai seminari che abbiamo fatto a marzo, vieni a fare passeggiate con il Prato, vieni a confrontarti, vieni a fare Leone da Tastiera su Facebook soprattutto. Non è se diverte a quello, non è diverte. C'hai un potenziale parco sotto casa, invece devi fare passi incontro. Andiamo, partiamo.